Nuova edizione di Cinema Africa, quali sono le novità di quest'anno? Allora, le novità di quest'anno sono dovute principalmente all'epidemia, diciamo, da Covid-19, quindi per la quale abbiamo deciso di prevedere anche una modalità streaming con cui, cioè, è possibile avere accesso a tutti i nostri film durante i giorni della rassegna del festival, anche quindi da remoto. Certo, quindi come e dove si potrà assistere agli spettacoli? Gli spettacoli, per quanto riguarda la modalità streaming, ci siamo appoggiati a una piattaforma che è OpenDDB, quindi si può accedere direttamente tramite la piattaforma oppure tramite il nostro sito, cliccando sulla sezione dedicata allo streaming si viene poi reindirizzati lì e una volta arrivati sulla piattaforma c'è la possibilità di registrarsi come studenti dell'Università di Bologna per avere diritto alla visione gratuita di tutti i film, altrimenti hanno un costo di 3 euro. E invece per quanto riguarda la visione dei film in presenza, quest'anno la rassegna si terrà al Cinema Perla, che è in via San Donato 38. Purtroppo i posti sono abbastanza limitati, appunto perché c'è la necessità di lasciare dei posti vuoti tra uno spettatore e l'altro per le norme che conosciamo. Ecco. Quali saranno le proiezioni presenti all'interno di questo festival? Allora, in questo festival noi abbiamo previsto 6 film, di cui uno appartiene, diciamo, al cinema ritrovato, quindi è un film restaurato, e tra gli altri 5, quelli che, diciamo, segnalo particolarmente sono il film di apertura di venerdì sera, che è The Great Green Wall, che parla di un progetto che attualmente è in corso in Africa per andare a creare un muro di alberi per riforestare il Sahel, quindi è un film nel quale si tratta anche argomenti come il cambiamento climatico e tutte le conseguenze sociali che questo porta con sé. E altri film molto interessanti sono Camille, che parla degli ultimi 2 anni di vita della fotografa Camille Lepage, che è una reporter francese che è stata uccisa nel 2014 mentre stava documentando il conflitto nella Repubblica Centrafricana. E poi abbiamo anche un altro film, che è Notre Dame du Nil, che è ambientato nel periodo antecedente, ma è andato nel 1973, quindi diciamo spiega un po' quelle che sono state le basi per poi lo scoppio della guerra del 94, quindi una prospettiva, diciamo, abbastanza inedita rispetto a quello che è solitamente la narrazione del conflitto ruandese. E poi abbiamo anche altri film che sono No Gold for Calzaca, che parla della espropriazione di terre da parte dello Stato che vende dei diritti per una miniera, e quindi chiaramente gli abitanti del luogo si ritrovano in condizioni di estrema povertà nonostante vivano in una terra molto ricca. E Talking About Trees, che è un film un pochino più rilassato, che parla di 4 amici sudanesi che sono emigrati e sono ritornati nel proprio paese e cercano di fondare un cinema e di fare delle proiezioni per riportare il cinema in Sudan. Quanto credi che sia importante e attuale in questo 2020, diciamo così, particolare e ricco di avvenimenti, un festival di cinema che parla di Africa? Credo che sia importante in generale sempre, quest'anno in modo particolare per il fatto che l'attenzione in questo momento è spesso deviata ad altri tipi di notizie che raramente riguardano l'Africa, e quindi secondo me diciamo riportare l'Africa al centro della discussione e anche da un punto di vista, appunto, promuovendo da un punto di vista culturale, penso che quest'anno abbia una particolare importanza. In più, sempre con il primo film che proponiamo, che è appunto The Great Green Wall, oltre a parlare, diciamo, di Africa, rimettiamo un po' l'accento anche su quella che è l'urgenza climatica, che è un altro argomento che purtroppo in questo periodo passa sempre in secondo piano rispetto magari alle notizie sull'emergenza sanitaria, ma che pensiamo sia comunque ugualmente urgente, se non di più. Perfetto, Chiara, io ti ringrazio. Ricordo ancora, dal 16 al 18 ottobre, Cinema Africa, rassegna di film sull'Africa e dall'Africa. Grazie. Grazie a te.